Nell'affrontare questa virtù, devo ammettere che nel più profondo del mio essere alberga un anelito, senza eguali a realizzarla ogni istante, e un obiettivo più che approvato da Gesù, il quale disse: «Niente meno, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero». Mt. 11.28. Spesso, abituati come siamo a leggere la parola di Dio, non diamo il giusto peso alle parole di Gesù. Ma nel momento in cui un uomo dichiara di essere umile o mansueto, non dice il vero. Perché meno, come sappiamo, nessuno è umile di cuore o mansueto per inclinazione umana. Perciò, ancora una volta, dobbiamo concludere che Gesù è veramente unico in tutto. A volte si fanno salti mortali per dimostrare che Gesù è Dio. L'evidenza della sua divinità, tuttavia, è talmente grande che neppure un particolare ci colpisce. Gesù non ha mai detto di comportarsi da umile o da mansueto, come potrebbe fare anche un qualsiasi uomo. Egli, però, ha sempre messo in evidenza quello che era, senza che si potesse mai trovare alcun essere umano pari a lui. I credenti che agiscono con umiltà e mansuetudine lo fanno sotto l'influenza, cioè la pienezza, dello Spirito Santo, mentre Gesù invece lo era dalla nascita. Gesù è nato senza peccato, ha vissuto senza peccare, cosa questa che solo Dio poteva fare. Ecco perché Gesù ha ordinato di imitarlo, perché imitare lui è imitare Dio. Eppure, non si può dire che la mansuetudine sia una delle caratteristiche più vissute dall'uomo, credente o no. Questo ci porta a chiederci il perché e cos è la mansuetudine. Arrivato alla terza età, ho capito che una ragione fondamentale del perché non si vive una virtù è data dal fatto che spesso non la si è compresa. È vero che si parla di amore, di giustizia, di umiltà e mansuetudine, ma se si fa una indagine ci si rende conto subito di come ognuno abbia un'opinione contrastante quella altrui. È vero che nel linguaggio comune usiamo le stesse parole, ma ad esse ogni persona dà un significato diverso. Lo dimostra il fatto che diversi sono i comportamenti. Se si pensa che i cristiani sono stati uccisi da persone convinte di rendere un culto a Dio, GV 16.2, non ci sono parole. Che cos è allora la mansuetudine? Il dizionario indica come sinonimi la docilità e la mitezza, e la definisce come quella disposizione d'animo contro l'impeto dell'ira. Per cui l'uomo mansueto è colui che è mite e trattabile, che non ha una natura aggressiva o violenta. Con queste definizioni è normale per noi immaginare un uomo sempre accondiscendente e calmo, ma i conti non tornano. Quando confrontiamo la nostra conclusione con il comportamento di Gesù e di tanti uomini di Dio, dato che la mansuetudine non è una parola astratta ma un comportamento, cosa dire di Gesù che sia all'inizio del suo ministero, sia alla fine, fatta una frusta di cordicelle scacciò fuori dal tempio, insieme con i buoi e le pecore, coloro che vendevano e compravano e rovesciò le tavole e le sedie? GV 2.1-3.17. Uno spettacolo certamente non carino per un uomo mansueto. E che dire quando Gesù censura gli scribi e i farisei per il loro comportamento e li chiama ipocriti, stolti e ciechi e serpenti e razza di vipere? E miti 23. Noi siamo abituati a leggere queste parole senza alcun tono meno. Ed è normale, meno, ma proviamo mai a pronunciare queste parole con un tono ad esse più confacente? Troviamo in esse della mansuetudine? Difficile dirlo. Eppure, Gesù non ha mancato di mansuetudine pure una volta. E che dire di Mosè, definito l'uomo più mansueto o umile di ogni altro uomo sulla faccia della terra? Numeri 12.3, il quale, con un gesto di ira, gettò dalle mani le tavole sulle quali erano scritti i comandamenti di Dio con il suo dito e le spezzò ai piedi del monte Sinai, Es 32.19. Evidentemente ci sono cose da rivedere in merito alla mansuetudine, cose che possono darci una realtà più umana. A questo fine è possibile anche avvalersi del concetto della complementarietà. I fisici hanno scoperto numerosi fenomeni descrivibili solo dal termine complementari. Un esempio sono i colori complementari quali il rosso e il verde, che si fondono per dare il bianco. Fu il danese Niels Bohr, 1885-1962, premio Nobel nel 1922, a introdurre il concetto di complementarietà nel 1927. Questo modo di pensare si è poi diffuso dalla fisica ad altre aree della vita, fino a giungere utile per la spiegazione delle verità cristiane. Se per complementarietà intendiamo che gli elementi non possono essere considerati simultaneamente, le virtù cristiane e vedervi, sebbene entrambi debbano essere spiegati, così spiegare contemporaneamente apparenti contraddizioni è normale. Dire che Dio ama e odia sono due verità complementari che prese ognuna per sé possono anche sembrare contraddittorie, ma non possono essere dissociate l'una dall'altra. Per questo possono soltanto essere contemplate singolarmente e solo prese nel loro insieme danno una più completa valutazione del carattere di Dio. Così è per la virtù della mansuetudine. Il mansueto è colui che si adatta alle situazioni delle circostanze della vita, è chi si lascia plasmare come la creta sotto le mani del vasaio, ma questo non comporta che a volte non possa agire o reagire in modo energico e decisivo. Una verità non ne toglie un'altra, ma insieme si completano. Come il maschio e la femmina, assieme si completano. Ma l'uomo rimane un uomo e la donna rimane una donna. Se si volesse femminare l'uomo o mascolinizzare la donna, non si avrebbe la complementarietà dei due esseri. Dunque, la chiamata del cristiano è a camminare in modo degno della vocazione alla quale è stato chiamato con ogni umiltà e mansuetudine, EF 4.12, in modo che la sua mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, Fil 4.5. Chi ci conosce può affermare che siamo mansueti. Gli altri possono definirci come persone sempre pronte a render conto a tutti quelli che ci chiedono spiegazioni della speranza che è in noi, con mansuetudine, con rispetto e con una coscienza pulita, affinché quando sparlano di noi rimangano svergognati quelli che calunniano la nostra buona condotta in Cristo. 1 Pt 3.15-17. Non si tratta di trovare dei versetti qua e là nella Bibbia per dimostrare che la mansuetudine è indispensabile nella vita del credente, perché gli scrittori biblici ne hanno fatto il tema principale in ogni lettera. Ne è un esempio Giacomo, il fratellastro di Gesù. Et di biteli verse velcara li verse zezili podileme li deni, uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. GM 1.2021. Il discorso di Giacomo è di una attualità impressionante. Ciò che l'uomo fa sotto l'impulso dell'ira non rientra negli atti di giustizia di Dio. Questo vale sia per l'incredulo sia per il credente. Dobbiamo dire che è difficile crederlo fino in fondo. Proprio per questo, la reazione giusta verso le circostanze ingiuste e dolorose della vita sta proprio nella mansuetudine, e cioè lasciare che il male compia il suo decorso, attendendo che Dio intervenga per risolvere la questione. Facile da dirsi, difficile da farsi. Spesso nel nostro cervello vengono dubbi, paure, angosce, titubanze, questo fa parte del nostro essere umano. Ma quando non vediamo nessuna via giusta per risolvere i problemi, non rimane che lasciarci modellare dalla parola di Dio, adattarsi alle sue vie e aspettare l'intervento di Dio. Questa, del resto, è la sapienza che viene da Dio, GC 3.13, e per la quale i credenti regneranno la terra, MT 5.5, SL 3711. Il salmista che si trovava in difficoltà disse: «Io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido». SL 40.1. Questa preghiera vuol dire esattamente questo. Mentre mi trovavo in difficoltà, mentre non sapevo cosa fare, con decisione e con molta pazienza, ho aspettato che Dio intervenisse. Certamente questo spirito è anacronistico ai nostri tempi, dove ad ogni piccola, anche apparente ingiustizia, subito, si cerca di farsi delle ragioni. Subito, si cerca di dimostrare la propria innocenza, la propria estraneità al male, e con molto affanno, si fa di tutto per voler risolvere la questione. Non che sia un male farsi le proprie ragioni, ma, quando non vi è quello spirito di adattamento, quando non ci sono quelle intenzioni di accettare la volontà di Dio qualunque essa sia, quando si è irritati o sdegnati, SL 37, allora manca la virtù della mansuetudine. E se in un matrimonio un coniuge non possiede questa virtù, si vive in modo separato per sfociare in un divorzio. L'Apostolo Paolo, che di traversie ne ha passate, ha dato una bella dimostrazione di cosa sia la mansuetudine. Mav, non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene, come apostoli di Cristo, avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece, siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. 1 Tess 2.6.7. Dunque, Paolo aveva ricevuto da Dio una non indiscussa autorità, eppure non ha usato con durezza questa autorità per risolvere alcuni problemi, ma ha agito con mansuetudine, cioè ha parlato e agito come una bambinaia, con tenerezza e comprensione. Essere mansueto vuol dire anche non far valere i propri diritti per amore del prossimo. Un simile atteggiamento è spesso scambiato dagli increduli per debolezza o incompetenza, ma è il prezzo da pagare per chi vive le virtù cristiane. Coloro che sanno perdere oggi vinceranno domani. E una filosofia utopistica e forse sadismo, tutto potrebbe essere possibile, ma ci scontriamo con l'enunciato di Gesù: beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. M. T. 5.5. Se prendiamo sul serio queste parole, restiamo senza parole. Come allora distinguere la vera mansuetudine da quella falsa, visto che essa permette anche atti di intolleranza come quelli di Gesù e Mosè? Dalle motivazioni, se agiamo non per salvare la propria reputazione, se reagiamo per la causa di Dio, allora è possibile andare anche oltre i canoni. Prendiamo sul serio l'ordine di Dio. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. SL 32.9, il che vuol dire non costringermi ad agire con durezza per farti avvicinare a me, ma con un atto di volontà e mansuetudine cercami continuamente e stammi vicino. Che belle parole, che bell'invito d'amore, come se Dio avesse bisogno di noi. Non incoraggia forse ad essere mansueti? Luglio 2009. Ellero.